Testemo. Il nome di chi ovunque è presente, il nome di chissà cosa sente, il nome di chissà cosa vuole, chi vuole, il nome del mio click è tagliente. Il nome di chi ovunque è presente, il nome di chissà cosa sente, il nome di chissà cosa vuole, chi vuole, il nome del mio click è tagliente. Che mi dai dell'invasato, non hai capito, captato con chi son nato, dato di fatto con fibre, lato d'impatto anatomico, il flow atomico appaio sotto schermo sostituendo il buio. Io con fibra compongo merda che pongo, stati di bilico che ti resti da sogno. Oh no, se mi vedi a pezzi è perché sono già no, cremo monocromo, oh no. Matto peco, matto per cosa? Musica che invasa nella casa di un cliente isterico. Il mio flow non è aritmetico, uso un sistema metrico di metriche che decima, ti immagina, e noi voteremo pagina. Numero 1 illuminò, come non mi modifichi, minimo imiti, ma non mi limiti, anzi ti limiti, limitando rimango ultimando. Io non ti do affatto, ti vedo, io ti do rime e rimedio. Mediocri, occhi ti porti ipocriti. Tu immagina, noi prima o poi voteremo pagina, chissà che con noi non trovi la tua logica. Immagina, noi prima o poi voteremo pagina, chissà che con noi non trovi la tua logica. Tu immagina, noi prima o poi voteremo pagina, chissà che con noi non trovi la tua logica. Tu immagina, noi prima o poi voteremo pagina, chissà che con noi non trovi la tua logica. Pochi ti vedono, pochi. Pochi ti vedono se non giochi, tu giocati, eliminati, invocati. Uomo, placati, ripagati, sì, ma da chi? Non qui, non qui, a pensarci neanche so poi con chi? Con chi? Con chi? Ok. Ok, ok, facciamo un numero, facciamo che come te, come con chiunque, ovunque, dunque. Facciamo il conto di quanto poi accumulo, che mi detta la fretta, maledetta la fretta, la fretta netta. Sensazione che ci sia in fondo qualcuno che ci aspetta. E chi ci aspetta? E chi ti passa? Teste mobili. E chi ti aspetta? Passa, Quello che ti passa, prendo lascia, dalla culo alla fossa, nel tricolo la sua mossa. Come ci si aspetta qualcosa, arrivi una nota, può essere confusa. La testa di un clima non corrosa, è tic da film, ma busta chiusa. Compro, do, vendo, sto, rendo flow, un clink, accusa perché abusa. Servirebbe qualcosa che mi si addica ad ogni rima che capisce a fatica. Sì, ci servirebbe qualcosa che ci si porti in giro una volta che incisi. Sì, sì, mi ci servirebbe qualcosa che mi si addica ad ogni rima che capisce a fatica. Sì, ci servirebbe qualcosa che ci si porti in giro una volta che incisi. Sì, sì, sì. Convinciti che citi linfociti, nomi di cuciti, anticipi auspici. Ma l'auspici, maniaci tramarci, nacidici, ci se vuoi spiaci. Lo spicci che spicci, chi versi espliciti, che appicci, che amplifichi. Niente ricicli, di ritmi monociclici, vincenti eventi recensiteci. Siti adibiti, rimaniamo allibiti, tra finti labirinti e finti miti. Siti adibiti, rimaniamo allibiti, tra finti labirinti e finti miti. Sommo componenti competenti, mettermi attorno. Torno con il doppio degli scandali della notte al giorno. Aggiorno, sformo, deformo, informo. Click teste mobili, Fabri fibra, lato multiply con Shazam. La tua logica, merce, marcia. Con chi è che ti rilassi? Con chi ti rilassi? Con chi è che ti rilassi? Con chi? Tu immagina, noi prima o poi voteremo pagina, chissà che con noi non trovi la tua logica. Immagina, noi prima o poi voteremo pagina, chissà che con noi, chissà che la tua logica. Tu immagina, noi prima o poi voteremo pagina, chissà che con noi non trovi la tua logica. Immagina, noi prima o poi voteremo pagina, chissà che con noi non trovi la tua logica. Con chi è che ti rilassi? Davanti a chi ti abbassi? Passo ai primi passi, pochi soldi ma se andassi. Che vuoi che te lo passi? Ma sei fuori, fatti due passi. Perché stressi, meglio che ti rilassi. Con chi è che ti rilassi? Davanti a chi ti abbassi? Passo ai primi passi, pochi soldi ma se andassi. Il nome di chi ovunque è presente, il nome di chissà cosa sente, il nome di chissà cosa vuole, chi vuole, il nome del mio click è tagliente. Il nome di chi ovunque è presente, il nome di chissà cosa sente, il nome di chissà cosa vuole, chi vuole, il nome del mio click è tagliente. Comunicante del team, teste mobili, ma che gli uccisi le truppe